Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E di nuovo in diretta dopo il GR di Radio Popolare, un Last Minute che ci porta in mostra. Sì, atipica la scelta di un'esposizione all'interno del Last Minute, che di solito è un appuntamento per la serata o molto imminente, ma è stata presentata e aperta esattamente ieri e poi soprattutto nella nostra città in una sede espositiva quanto mai importante, il MAST. Beh, allora, per quanto riguarda le riflessioni che abbiamo avuto durante la lettura delle prime pagine, a mio parere, sempre mi ricollego, il MAST. Il MAST è un'istituzione fondamentale. Il MAST è mecenatismo culturale, è grande motivo di sicurezza per le lavoratrici e per i lavoratori, è un aspetto padronale che però rispetta determinate situazioni per uno svolgimento di lavoro e di diffusione culturale molto molto importante e anche di grande qualità. Poi le esposizioni possono piacere o non piacere, ovviamente la linea espositiva per meglio dire, ciò non toglie che la qualità è altissima. Detto questo, dopo aver elogiato e sinceramente continuo ad elogiare la realtà MAST, cosa troviamo per quanto riguarda la mostra partita ieri che sarà fino al 10 settembre 2023? È in occasione dei 100 anni dell'impresa GD, che ovviamente è dietro il MAST, e dei 10 anni di fondazione MAST, è stata organizzata l'esposizione Animo Ciputi, un racconto di 50 anni di lavoro in Italia e nei disegni di Altan. Allora, chi era Ciputi? Lo sapete? Certo che lo sapete. È il metalmeccanico. È il metalmeccanico che portava un motivo di critica, è il metalmeccanico che rappresentava il metalmeccanico e l'operaiato molto informato, allo stesso modo dotato di una grandissima ironia, autoironia. Veniva rappresentato anche il grande capitale, presente questo imprenditore con l'ombrello in mano, le famose battute, poi ringrazia che non l'ho aperto, insomma, quando lo metteva in determinate posizioni o a Ciputi o ai suoi colleghi. Ecco, tutto ciò viene portato dal MAST. Io, bene, onore al merito, ma non lo trovate un po' un cortocircuito? Per me un motivo di riflessione ulteriore a proposito di tutto quello che abbiamo parlato in precedenza, ovviamente lo lancerei, pur restando ovviamente ben contento per la nostra città e per le possibilità che il MAST propone e per la qualità. Altan, questo disegnatore, e non solo, sentiremo nella breve ma ben portata intervista, ben condotta da Sergio Fanti, ecco, un'azienda padrona porta in esposizione questa figura. Meditate, gente, meditate a voi, insomma, quello che può essere un motivo di riflessione ulteriore sul perché e sul per come stiamo vivendo questa situazione. Allora, sentiamo la voce di Sergio Fanti, ma non solo, sentiamo la voce del protagonista di Altan a proposito della esposizione al MAST Animo Ciputi. E poi torniamo in diretta dopo questo Last Minute di oggi, giovedì 6 luglio 2023. Sono in compagnia di un personaggio davvero eccezionale, il grande Francesco Tullio Altan, che è celebre per le vignette di Ciputi che tutti abbiamo visto. È un personaggio interessantissimo, un metalmeccanico appunto protagonista di tanti anni di satira italiana da parte di Altan, e vorrei chiedere la domanda più banale: come è nata? Dove l'ha trovato lei Ciputi? Ciputi è nato quando io ho passato un anno e mezzo a Milano, tornando dal Brasile, e credo di averlo visto in un sul tram o da qualche parte, perché io non frequentavo la fabbrica, quindi guardandolo ho fatto delle ipotesi poi su come lui poteva lavorare e pensare. Lei fra l'altro si è formato proprio nella nostra Bologna, poi è andato in Brasile, perché ricordiamo anche che Francesco Tullio Altan lo conosciamo per Ciputi, ma è scenografo e sceneggiatore cinematografico. Sì, ho fatto un po' di lavori nel cinema, cominciando in Brasile, appunto perché un mio amico mi ha proposto di fare a partecipare a un lavoro laggiù. E io già disegnavo qui e ho lavorato un po' nel cinema e poi sono tornato al mio vecchio amore. In questa mostra, che parte oggi 5 luglio e sarà al MAST fino al 10 di settembre, ingresso gratuito, appunto potremo vedere le varie vicissitudini di Ciputi, che è un metalmeccanico, ma come lei diceva prima in conferenza, non è tanto l'emblema del metalmeccanico quanto di una persona che fa bene il proprio lavoro, è contento di svolgerlo bene, con coscienza, perché ha fortemente a cuore la comunità. Sì, esatto, è quello che penso anch'io. Mentre invece stiamo andando verso un individualismo senza freno. Sì, questa società si sta parcellizzando e tutti vanno un po' per conto loro, gli obiettivi comuni sono un po' lasciati da parte, cioè questo non è una bella cosa per una società. Ed è per questo che Ciputi in questo periodo, in questa frangente, osserva, se ne sta un po' in disparte e interviene solo in questioni eccezionali. Sì, e io amo dire che lo richiamo quando c'è bisogno di uno serio, forte e con molta storia dietro. La ringrazio e ricordiamo appunto fino al 10 settembre la mostra su Ciputi al MAST. Grazie al maestro Altan. Grazie a voi. Ciputi rappresentava, oltre che l'operaio responsabile, rappresentava anche un grandissimo motivo di critica alla società liberista. Vi ho ricordato l'ombrello con l'imprenditore che minacciava costantemente di sapete bene cosa. Ecco, viene portata da imprenditori stessi, per quanto illuminati, per quanto fondamentali, per quanto io ne sia accidenti, quante mostre al MAST ho presentato, Poi gli appuntamenti sono tutti completamente gratuiti, la sede è estremamente interessante per quanto riguarda le mostre dedicate al lavoro, alla fotografia, mai guai, nessun motivo di critica. Il motivo di critica e di osservazione è molto più generale, su come si sta rivolgendo la società, su come i percorsi stanno procedendo, sempre rifacendomi al discorso che hanno portato ascoltatrici e ascoltatori durante la lettura delle prime pagine. Ricordiamo, Altan era impegnato sulle pagine dell'Espresso, quando l'Espresso era il settimanale di sinistra. E mi pare anche sull'Unità, sempre. Sto parlando di anni. Ok, chiusa la parte critica, che poi critica non è, cioè è una constatazione. E Steve Coleman, lui è Steve Coleman, che è un grandissimo musicista, lo ascoltiamo per qualche minuto e poi in mostra ufficialmente col grande approfondimento che già pensavo da qualche giorno, dedicata a un'esposizione a Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antico. Siamo a Piazza Castello a Torino, ma fino a Torino. Ok, intanto abbiamo una lezione di storia dell'arte, la musica che mi sono permesso di portare a tema, sempre con un'idea bizantina, a commento di questa realtà storica che è veramente da approfondire anche per quanto riguarda, sapete, studiare la storia vuol dire poi capire meglio il presente, e quando lo si può fare con dei grandi storici dell'arte è un valore indiscutibilmente importante. È un'esposizione che tra l'altro è fino al 28 agosto, quindi sai mai, siete da quelle parti, e soprattutto oltre che avere la possibilità di approfondimento, come sapete, in mostra non è unicamente da attenzione, e come, anzi, dopo i cambiamenti che hanno visto protagonista la nostra città, ne ha dato attenzione in questa stagione in maniera molto molto forte. E poi, se ci sono mostre di respiro europeo e oltre, è chiaro che non le perdiamo. In diretta tra poco i bizantini, i protagonisti, il professor Giovanni Villa ci accompagnerà in quest'epoca storica e apriremo ufficialmente a Regola d'Arte la rubrica del giovedì. A tra poco!